cazzo, dove cazzo te la brutta, boh? Ah, ah sì, cos'è la cannonau? Accannonau, è staccannonato voce, cazzo ne ha giorno mai giunto. Allora, perché? Allora dico, mi gioco il biancaggio e più mi gioco pulisco il voto, cannonau. Cannonau. Ah, ne un secco, sì, chi, alla Salino, Claudio, Luca. Ecco per gli altri signori, quelle belle e quelle brutte. Ma che fratelli dicevi, c'è? No, no, sto con rientrente. Rientrava, ma perché puoi viaggiare tu? Io posso viaggiare sempre. No, era a Cagliari, caricato il cartofo, ho portato a rimbasso e mi sono con rientrenti. A fatti per viaggiare, io mi ne Berlusconi. Allora, cazzo, mi cazzo con questi disastri, no? Cazzo, una buccia di gionca, no? C'è una buccia di gozzi da Taluga. E non lo dai con lo Scania, te lo sciolgo, beh. Lo Scania, era un radio Scania, no? Vogliamo sentire Scania. Non è volte scandalo. Lo Scania, Edulo. Sì, mi vado con lo Scania. Ma tu sei italiano, no? Ma come tu che sei bloccato due un camion? Non ti credi, e dopo sono la camera di 5, e dopo rientrare davanti era un problema, sono circa 80 km. E non diciamo che ho messo. Ma porto pagato, se capo uno che non c'è, c'è la polizia. Ma si va che c'è la polizia, povero. Ma se il paridore ancora sta in giro. Ma se il camale scende da casa e si rientrende da pazzi rossi. Io se pure a me succedeva così, la gente rientrando e andando a lavorare. Il camale era così, era. Tu ti rientrende, no, che lo vestissi. Rientrende da un Blue Star, tutta la macchina che era venuto pizzicò e pizzicà. Ma che grave sei, no? Sì. E anche veramente da un po' di andava per la rocca e andava. Tu hai fatto della musica, Erani? Ma fatti qua! Ma questa è per 13 anni che non ha salutato Vincenzo, le 15 anni. Ciao Vincenzo, ciao a tutti gli altri amici, dai. E allora, buona questo vino, Vincenzo. Claudio, farà Luca, il peggio la capa a fare, e la ritocca questo e due. E non mi dici che la giacita non si è rimasta lui. Non manco una, ma dite la verità che non arrivi a casa se mi ha subito a farti 3 o 4 caffè e basta. Non manco una tazza di birra nuda e se lo posso sudare alla grande. Già, Vincenzo gioca col vino, scherza, ma ti posso assicurare, io lo conosco, ci conosciamo da ragazzini. È l'unico dei fratelli, perché sono tanti, che non tocca nulla, solo un caffè e bis. No, a chi la verità mi va proprio qui dentro, ma io ci voglio domandare. Ah, sì. Guarda, gra, non mi si vino, ma cannoli e stand-up, eh? Prima, quando ero più giovane, 12 anni fa, mi fumavo i cazzetti, beh, dico che alzava l'adrenalina. Cazzo, ti fumate i cazzetti, ma non se ne fai l'avanzo, magari ti fumate proprio i cazzetti che ti buscate. Ah, no, cazzetti nuovi, tipo mai di te una risa, no, un po' su di questa per la tennis, ma ne manco una risa, mezza di gumbiago. E dagli un pezzo, ma me da macco, oi oi. Oh, vede la voce, mi avevo un remoto che la pedana da voce, di tutti i minestroni, tre corsi, pesto, questi cose così. Ehi, gatto, non lo faccio mai nel gatto rossi. Ma tu è cannone, no, oi, vai là. Ah, Claudio, ma la tazza in mano, non lo dico di te. E una sigaretta in bocca. No, in base a questi cosi, no. Sì, un altro. Sì, su. Ma noi di cosa siamo invasi? Con un asino? Non è invasi, grazie. Con un asino. No, da che tiro? Dall'impulla direttamente. Ma deve essere morto. Non c'è proprio la batteria, se ce l'ha mangiata. Proprio la batteria del microfono. Che fine avrà fatto? Chi lo sa. Aspetta lì a Maniongo. Aspetta lì, dammi la batteria, poi ti faccio un gabbo. È finito. Dammi la batteria. Faccio proprio la batteria. Cazzo di ogni volta devo uscire il gabbo ma una batteria. Ma dimmi tu. Quella è la casa dei mistini, che la trovano perché ho tanta roba non la trovavo, te lo ricordo. C'è la tua volta già! Stavo cercando il telecomando, perché molte volte capita. Tipo adesso non se lo vè. Non se lo vè. Cazzo, ho cercato il telecomando. Qua in farlo, non riuscivo a trovarlo nel mobile, nulla, sopra la smiette, no? Un po' strano. Sopra il comodino niente, sopra il mobile non c'era tipo niente, che cazzo è, portato a letto non c'era, da dove era? Sotto il cuscino. Se la gente dice drummizzo, mucinchi, e quello lì era il telecomando che non riusciva a trovare, e sentite, la casa dei mistini, scompare tutto. Adesso ho trovato la batteria. Quindi li incontro tutti, poi con loro, noi fratelli di Vincenzo ci conosciamo la vita. siamo nati tutti in chivi, io ante Sirugu, tappa. Vabbè, anche quello bisogna farlo. Siamo domani, c'è una bella giornata perché anche io ho dei lavori, stiamo facendo. Ecco, la mangiare, me la venendo, la meningite me la venendo, è un freddo che c'era fuori, mamma mia, gara. Io vedo papà, sono sceso a fare i lavori di lui, della macchina, aggiungervi, che poi ce ne vorrà pochissimo. A mettere l'acqua, a controllare i liquidi, la macchina della moto, io mi sono pulito l'antenna, già che c'ero, anzi volevo telefonare una salita per piazzare l'antenna della macchina mia moglie, poi gli ho detto sarà riposando, ce lo facciamo domani se c'è tempo. Sì, potevi telefonare già, non lo prendi libera. Che antenna metti già, con la piccolina? Sì, con la piccolina che va a salire. Sì, sì, quella ce l'avevo anch'io, quella della... come si chiama? Quella che si regola le stazionali con le vigili. Oh, dopo la prova, il cavolo ho cambiato, vediamo un po' cosa dice. Sempre uguale, sì? Sempre la piena la radio. Mucchi, no, ma sono contento. Ci va la tecla, perché la... sta giù a passo. Ha bruciato qua, praticamente vicino alla capsula, era Silvio, ha detto. Poi toccava il telaio della, del coro, del, come si chiama, il telaio del microfono. E fine questo, sempre rosso e nero. No, per il momento gli ho messo questo qua, poi si vedrà. Luca, non parlare un attimino, ti è abbassato. Niente, dava l'impressione che ci fosse un fischiettino, ma proprio sotto forte. Beh, senti questo qua a me. Beh, cazzo non lo senti più. L'apparato c'è acceso. Sempre. Ormai questa è l'abitudine, mi sono abituato a lui già. Vabbè, già ti ammudo senza accenderlo, non è sempre la... Però adesso sono seduto, ne approfitto. E mi ascoltano mentre che parlo. Ah no. Quasi la accetta. Io direi potevo andare neanche nella trattanza modulare che cazzo gatta. No, ho provato già, non riesco a trovarla quella molla. So che ce l'ho ma non solo che l'ho messa. Non è in garage, non so, io ho portato giù un po' di roba, faccio la carbonazia a questo garage, sicuramente dentro non ha quelle buste. Mi serve la molla per passare il cavo nel muro, perché sicuramente con la punta lunga ho bucato per appena inclinato e quindi va entra. Allora ci vuole la molla. Vabbè. Comunque ho messo il commutatore fuori, ho fatto lavoro ad hoc, tutto stagno, commuta le antenne, a posto, le antenne, l'antenna mi commuta questa da una stanza all'altra. Ho fatto anche l'Antonio R20 una volta, perché c'era questo apparato e aveva sempre paura. Allora l'aveva messo in una stanza, dentro l'armadio, chiuso, e il baracchino c'era in cucina, lì avevo fatto lo stesso lavoro che ho fatto adesso. Attaccato al muro con silicone il commutatore, l'ho fatto asciugare e poi ho fatto la scatola di quelle stagne che ci mettono esterne elettriche, dentro c'è il commutatore e commuta automaticamente. Ecco, avanti. Buonasera a tutti, Roberto, da questa parte sono Flavio, Luca, Gianni e Natalia, non so se ci sia qualche altro. Siamo elencati tutti, avanti Gianni. Ciao Roble, mi sentito, in realtà anche a te. Ciao Robiso, buonasera, mi sentito. Allora Roble, cosa ci racconti? Cazzo che ha, le fermetto, ci coglia. Le fermetto, ci collo. Vabbè, cosa ci racconti adesso già? Ti racconto, ho visto che c'è il segnale un po' più forte adesso con questa. C'è il segnale più forte, gli ho messo un cottoci, adesso anche Luca. Per punto aveva l'OBL di discesa e mi aveva dimenticato di saldarlo, l'avevo solo avvitato e lasciato così, è da luglio così. Sto facendo questi lavori, questo lavoro che ho attaccato il cavo per attaccare il cavo. Ci ha accorto che era attaccato e quindi l'ho saldato, tutto l'ho avvitato bene. E adesso già va, non ho fatto un lavoro di commutazione da una parte all'altra, capito? Due radio e con la stessa antenna. Capivo già, no, era da fare. A volte bisogna anche rilasciarmi anch'io, allora ho messo un'altra stanza. Anche se mia moglie è contraria, però ho visto che ha sollevato due minuti la voce e poi si è calmata. Che ti copiando la mia. No, io proprio nata lì, ho fatto un lavoro mega galattico, tu vai a fianco, io ho passato da una parte all'altra tutti, con un'antenna e il cavo che scendeva nel, che passava nel fagiolo, l'ho tagliato in due e ho messo i due PL nuovi, uno che entra dentro e l'altro che entra in una stanza e l'altro che entra in un'altra stanza, ho bucato il muro e in mezzo ho messo il commutatore d'antenna elettronico. Forse di voi li avete recuperato da me, anzi, perlomeno io ho due anni a questa parte, con quanto mi so, un anno e mezzo, sono sempre qua, è lei. No, no, che io, cioè, due stazioni io ce l'avevo come Claudio, perché una stazione ce l'avevo fuori, una ce l'avevo qua. Natalino, sì, e quel lavoro lì ho fatto, Natalino, quel lavoro lì ho fatto. No, no, averla così nel letto, quello, vabbè, è facilissimo, ma io ho fatto il suo lavoro, l'ho fatto Natalino, sì, mi ricordo un tempo fa, una ce l'avevi nell'ingresso, dove c'è il computer e l'altro ce l'avevi nella stanza letto, e così ho fatto io. Ho messo il 440 dentro e qua la linea da 140. Ma va bene. Allora, Roberto. Elettronico proprio a corrente, capito? Elettronico. Come commuto l'antenna da qua, dalla T250, il commutatore elettronico mi riscatta l'altra antenna, capito? Un sistema che avevo, l'avevo comprato in fiera, non l'ho mai usato. Ho messo la scatola stagna fuori nel poggiolo attaccata al muro dove non tocca l'acqua, perché l'acqua non ci arriva mai lì, proprio sotto la finestra, attaccato a silicone e poi la scatola stagna, fatti i fuori a tascelli e messo dentro il commutatore. Come già, non so se l'avete mai visto in questo caso di genere, ma di grande attività di origine, comunque serve un tre, da un lato all'altro. No, la bella 50 collegata, insomma, automatico, elettronico, poi anche a corrente, quindi. Io batto il cambio l'antenna, adesso sono sull'antenna 1, se comunque l'antenna 2 mi passa l'antenna sull'altra radio elettronicamente, capito? Non è un vantaggio, non devi fare niente. No, non ne vuoi una casina. Vabbè, guarda, ragazzi, la dita è sul suo, no, è sull'1. Di 4, 1, no. Ma la notte è di 1 e 1, non è di niente, 1, 1, fermo sull'1. I cavi sono grossi e non sono degli 58, esternamente ho tutto cavo grosso ed è entrato anche il cavo grosso nell'altra stanza. I piedi li ho messi tutti nuovi, me li avrò portati dalla fiera un amico, a Fenolo, e via. Adesso mi manca solo sollevare l'antenna, solo quello devo fare, e poi basta, e poi ho finito. Ah, la C500 devo piazzare. Ho messo il cicciato e l'ho inclinato appena appena, mi ha fatto il foro, siccome il muro è da 40, mi ha fatto il foro sicuramente appena appena inclinato, quando va a entrare il cavo normale, immugia e quindi se ne va, no, non mi entra. E c'avevo la molla, io mi ricordo, ce l'avevo a carbonati, ma nel trasloco, adesso capire dove l'ho messa, ma domani mattina dal lavoro mi porto la molla, ce l'ho, oppure un pezzo di ferro da 50 cm, 60 cm, ma lo entro e domani lo faccio, non c'è più gana. Esce, proprio, esce, proprio, perché La punta è ancora attaccata al trappolo, lo devo pulire, ma l'ho appoggiata nel poggiolo, adesso la pulisco e faccio l'attacco e faccio così, entro la punta dentro e faccio uscire il coso, dai, un pezzo di corda, qualcosa, e poi lo leggo e tiro dentro il cavo. Ma cosa è la punta al trappolo? Mi fai anche il fanno per cucinare, va bene, fino a per cucinare, se non è già tanto lo fa entrare, non deve fare nessuno sforzo, e lo metti nella parte filettata della punta. Cappa, cos'è Natali? Attaccare il trappolo dopo, se no sento le trappole tutto. E allora, adesso lo stacco. Adesso lo stacco, Natà. Se no, anzi, volevo attaccare, perché l'ho messo fuori. Sia che piove me lo bagna. Ecco, per me provo a fare questa operazione drago tipo Goldray. Avanti tra la punta e non riesci più. Ma cazzo butta il gatto. No, che già è basta attaccare un dramma, va bene, si metti. Cazzo, se perdo la, cazzo, come tu c'hai un doppio senso, se perdo la punta ti inculo. Non è che la pesi, no, certo. Non riesci più nemmeno un drappa. Mazza di nevaria. Ah, gioca un po' in giugno. Allora, solo per volta. Ti prendi Luca, dai. Calma, calma. Ho sentito dire che perché stiamo guardando scuola di polizia. Che quando ne parla? Una allusione, Luciano. Prima visione, 60 minuti, che è peggio di continuare a chiamarlo il Trinità, ma non sanno cosa era la scuola di polizia. Sì, ma il bello è che non l'ho mai visto fino alla fine, anzi come sono fatto qua l'ho visto. Ma che stai guardando adesso? No, alla fine non l'ho mai vista la polizia. Ma la più bella era il numero uno, poi una volta che l'hanno fatto gli altri erano le copiature, ormai ti hanno stufato, ma il primo la novità era bella. Si vede in gonna. Hai detto non è il numero 98. Ah. Sì, che c'è, con gli occhiali o i baffi? Sì, un negro alto e grosso. Sì, sì, c'è. Hai detto che lo chiamano luce di torre alta perché è altissimo. Dopo le mangiava. Poi mi chiedo che fate tutti i svizzi, come si chiama, adesso non lo ricordo. Sì, anche. Ma perché non c'è fischi, sta facendo male qualche cosa? No, fischi, non sto parlando di fischi, ti stai dando ci sono, perché stiamo guardando i filmati che abbiamo fatto a Marco, a Porto Torres, con subito la maschera. Dove la parete cos'è? La Palicchio, la Fayette. Abbaccia, un elicotterista, abbaccia. No, c'è troppa ripetizione. Guarda a vedere. Non so se puoi abbassare la ripetizione, ecco, va bene. C'hai troppo reverbero. Ora, guarda, tre. Va bene. Così è più affidabile, direi, no? Tu hai la mania di punire sempre tutta a manetta. Va bene così? Ma non hai tornato che ti accaduto, visto, ecco. No, non sto pilotando con l'altro apparecchio. Ah, ho capito. Già va bene, già va bene. Se lo tieni così va bene, se lo tieni troppo alto non serve a niente, che sfasci le orecchie e basta, e la voce è incomprensibile. Adesso l'ho messo a uno. Già va bene, già va bene. Va. Boh, riprendi i look allora, dai. Sì, aia. Oh, aia. Ecco, già riprendi, caro, già riprendi. Adesso mi fumo un canonau. Ai ai, avanti Gianni, riprendi e fai girare quello bello. Gianni? Gianni, ci abbiamo cazzo. Riprendi la carica. Gianni, sarà forzato. Magari è uscito fuori. Ormai riprendi. Vabbè. Non è una domanda interessante, cosa vuoi ti dica? Non mi viene niente di nuovo. Avanti tu, là. Io ti ho detto, l'unico lavoro che ho fatto stasera, ho messo il commutatore esterno nel poggiolo e mi commuta le antenne, cioè l'antenna, dico sempre le antenne, l'antenna, la verticale su due radio. Uno qui in questa stanza e uno nell'altra stanza. Come lavoro, adesso ho passato anche il cavo, però attaccare solo il PL e poi finito. Capito? Tutto lì, basta, non ho fatto altro. Ne avevo montate altre due, ma se non cambio il tempo io non mi ammalo con le antenne. Ne avevo montate altre due, devo montare l'XC500 e l'XC300 che c'ho nel poggio, devo portarla su, la PRS. PRS è tutto quello che mi serve, capito? Tutto lì. E poi, adesso levare l'antenna. E c'ho già tutto pronto, però fino a quando non c'è una bella giornata di sole, non mi avventuro sul tetto, capito? Ma ecco le carbonate, le antenne, le antenne, le antenne. Tutti a carbonate sono, la manco va ancora attaccata, ma perché la bocca è sempre perfetta, ho staccato solo il cavo e boom. Gli altri li ho tolte, li ho piegate e messe da parte, sono anche tutti di puli, uno solo li ho portato qua, la G5R2 è basta, quello degli 80 è ancora là, quello dei 40 è ancora lì. Antonio Monteoro, la grande, l'XC500, perché io me l'ho presa nuova, ce l'ho imballata, devo montare quella lì, la devo montare qua, che è alta 5,70 m, e poi l'XC300, diciamo il poggiolo, lo stesso devo montarla sul tetto, basta, poi ho finito, non metto altre antenne, no, non voglio fare altre antenne qua, ma va bene, questa che ho, per i 10, verticale i 10 e poi il dipolo con 5 bande, devo solo tirarlo e metterlo bene, capito? Poi se vediamo un po', se decido di tornare là, c'è un dipolo che Natalino conosce molto bene, è stato fatto dal suo vicino, che quello però fa danno forte. L'XC300 c'ho adesso, ma devo montare l'XC500, la bibanda della Daimo. Ma Natalino, hai visto come ha fatto quel dipolo, mi ha fatto masco, eh? Lo so, sì, già l'ho visto, a voi se l'ho visto, non fa. Visto che chi è già rossi, per la carbonata va da una parte all'altra, in orizzontale, l'uscio, quello è a scaletta verticale, hai visto come ho fatto, no? Ho fatto una maniera allucinante quello di polo, solo che qua purtroppo non ci sta, non lo posso mettere, allora lo metteremo là. Ci vogliono 20 metri di posto per farlo, perché quello hai sbagliato, non è in verticale, è orizzontale, è un tripolo di polo praticamente con una unica discesa, 10, 20 e 40 così. 10, 10, 20 e 40 è una bomba adesso di polo, se l'aveva lui uguale l'ha attaccato perché sta facendo i lavori, poi lo rimette da un tornice all'altro, una bomba su di poco, l'ho sentito, è allucinante, allucinante, se no non tenevo attento. Va bene, Roberto, va bene. La passione è che sta un po' venendo a mancare questo periodo, c'è un sacco di cose da fare, se non voglio di niente. Quindi ti ripeto, mi sono fatto questo lavoro della commutazione elettronica dell'antenna, l'ho terminato poco fa, tutta la sera a casa, ho fatto perché ho da fare. Adesso la tua radio è pronta, però non c'è più gare va nulla, capito? Vediamo un po' se c'è Gianni, già. Franco, cazzo tu, entri di alla due pariti. Franco. Non c'è. Non c'è, vabbè. È andato a Bofi. È andato a Calavosi. È andato a Brucia Puttogino. Ah, già ho capito. Speriamo non si abbia mangiato di nuovo la panna, se no siete fregati. No, l'ha fregato lui, noi non ci fremo niente. Ah, è vero, ma lui, l'ha fregato lui sì. Con la voce che c'hai con questo ecco, calma, calma. E allora dove c'è Franco ti fa di sorda? Ah, bella, ce l'ho questa voce qua, che bella. Giusto, bella, pulita, bella, limpida, limpida. Invece Franco ci buona ficcheria a fare un berro. Due, dopo. Oh, aspetta. Ma anche non ti si muove, rimani in gomma di vostra mano, e la lasci modula tranquilla, sempre tu candy, una sessione diventata, un chicco vecchio, un chicco baracchini della macchina, un chicco modifiche, per carità. Sono già combinati il nostro poco questo salario, appunto, chi ne ha più da mettere qua dentro. E adesso va bene a lui così, ma è lui, è casa sua e fa quello che vuole. Io non voglio ricordare i miei servizi, non voglio nulla. Ho fatto un lavoro anch'io allucinante, però ho fatto, come Dio comanda, mutazione elettronica da una parte all'altra col commutatore elettronico e direttamente ne appoggio, non aggio di commutare nulla io. La radio e l'alimentatore sono da un'altra parte, solo l'antenna commuto da qua che butto. Va bene, facciamo girare, dai. Gianni, ci sei? Che giorno è sparito? Luca? Ci sono, ci sono. Guardando tuo film, basta, gaggata, ci tagliamo. Ok, Roberto Quadrato, rotondo, riprendi. Già ci sono, rotondo, eh. Non si è offeso perché l'ho detto sabato sulla radio, ma a me sinceramente non mi piace le basta. Altre volte ho detto che andava bene, però adesso la voce non... Considerando che c'è un buon microfono, la metto in macchina, domani sera quando esce a lavorare mi andrà a togliere apposta. Le dovresti come ti va? Carità, benedite le venende a Franco, che se lo è, con che se gosi. Io gli hanno divulgato tutto alla macchina. Ma per carità, hai bisogno del dito, vai, vai. Ma basta a casa, non mi posso in macchina, ma attendo la radio, no? Ci ho provato un sacco di volte, ma no, non mi piace, non mi piace. Lucci, lucci. Faccio un po' di sessione, sta qua dentro, vedi, ma domani mi smaccate la cittadina e te la cavo a tutti. Ciao Maria Luisa! Ciao Gianni, un bacione! A 3.80! Sì, a 3.80 verrà la cosa. A 3.80! Così andiamo bene. L'ho vista l'altro giorno, non ti dico dove, se no poi dici che non vuoi a dirlo. Vabbè, ti abbiamo visto, ti ho visto con la talone. Hai visto a me? Dove? Dimmelo, dimmelo. Che ho padre che mi comandano io. Mi hai visto dove? Beh, a Pasquoli, ti ho suonato anche con la macchina, eravamo con la talina. In via Pasqua, e a che ora? Mazzalini, Mazzalini. Poi sono le 11 così sono stati. 10 e mezza, 11. Stavo lì, forse stavo lì alla Cove. Ma con che eri? Con Natale. La macchina era quella di Natalina. Ah, ti avevo visto, mi è saltato anche. Natale, dobbiamo andare a vedere, tutta dormita, eh. Oh, cade da ciappo, te lo do io se lo dormiva. Stiamo tornando da Assisi, infatti ho sentito queste cose, mi sono girata, ma io mi sono girata, voi siete passati, c'è Natalino, e ho alzato la mano, ho appoggiato la busta, perché era per salutarvi, ho alzato la mano, però non lo so se mi avete visto. Già ti abbiamo visto, già ti abbiamo visto. Ciao amore. Ciao bella. Poco non si mette a fare la candela, no? E anche tu solo, mi chiamiamo di niente, era diventato solo a candela. E mai sono geloso. Ecco, per te è male facile. Non ci gioco più. Non ci giocare. Natalino, non fare il galletto. E io non lo sto facendo il galletto. No, il gallo. Senti, c'è, lascia le braccia, Natalino, dai, c'è queste cose. Oh, oh, allora, mi vuole un po' di debili, c'è, che vale fatto. Oh, oh, non si può dire niente, si può ne salutare, ne mandare baci, tutti i baci, io non lo gioco. Stai, sono tutti gelosi in me. E chi è geloso ma il cornuto? Mimmo! Aspetta, ma se non mi stanno chiamando. Cappa. No, mi hanno chiamato. Ah, già, ti avviene, Brasile. Vabbè, prendetela a Claudio. E lei non gli avviene. Vabbè, lui è già a casa. Cappa, cappa. E voi ancora in festa siete? Siamo qua ancora, tu perché non sei venuto? Ti stavamo aspettando, non sei venuto, aspetta. Sì, hai ragione, vengo. Ah no, mi è voluto uscire. Sto attirando, sto facendo. Sto vengo ragione. Allora niente, rimango qua anche io. Sei il cazzolo, la sua Arianna. Ma poi ti faccio compagnia io, mi. Io lo so che non sono solo, con tutte quelle belle donne che ci sono lì. Appunto. Lo so, però rimane brutto lasciare queste due donnine qua da solo. Ci fanno compagnia a vicenda, lasciale stare. E vai che hanno le braccia. Ah già. Che fate viva e viva quando vai. Ma perché te ne vuoi? Io sai che sia vero, poco mamma mia. Natalino Alfa 1, 2, 4, 3, 3, 4. Vai Luca Pugione, dico il numero di telefono. Ah, mi chiamo Ponti, che ero Pugione. Ma cannonato dici? Cosa? Cannonato dici. Cannonato? Cannonato dici. No, cannonato. Allora, Iaia, canto i gommori con me dupla. Tu vai nel gommi. Oh, non si può dire che sciogliamo già, sciogliamo il bilancio. Tutto l'inghito, Maca. Già era un giorno se fa Merello, lei conosce perché lo vedevo, l'hanno visto la porta lì della madre, e quando era montagnese lo vedevo sempre. Tutto l'inghito, Madonna. Oh già, non ti dico, la scena piange, è la scena. Quella è appunto da Bucanni, crema del limoncino, la buona la buca della Zambucca, dove si è fatto un caffè. Da voi cadono quello là, ci ho messo una bottiglia di vino, guarda, poi abbiamo una tempura di vino, ma come ti siamo andati? Se no te ne ha mandato da quattro anni. Se mi ragioni tu quando devo andare più bella, come ti mandi tu Claudio, sto andando a finire, ma tutti i due sì. Natalia, mi è stato preso perché Franco ci aveva un impegno. Io non sono ancora in Chivi, mi ha fatto da sai. Non ne ho vergogna io. Poi arrivo lì, dammi il pane, che me lo fa un panino con i fiori, con il formaggino, subito male urbani, tanto salsiccia. Ci abbiamo ciulato una bottiglia di cannonavo, diceva il Mosca, ma buono. Ma mi ha cannonato un barone, ci arrivi da casa e non mi servirò. Sì, era buono la fritta, era buono. Frega rubinazzo, poi formaggione in vermi, salsiccia, e poi alla fine un bel pezzo di pandoro. Pure. Allora, quello al cioccolato. Con Pinangelo non si scherza, non lo sai, è un bel fittale. Pure di grappo, ho preso la bottiglia, la bendilastra, che ho detto, va, ponete nel frigo addosso. Ragazzi, mi vuoi in blacca? Conosco una vita fatta sempre il cogillo. Sempre. Chi? Rita, amo di spinaci. Era troppo cari ieri. Troppo cari. No, mamma mi stavi dicendo lui. Che chiedo la procura dei ricci. Ora stiamo di spinaci, ma troppo cari. Se la passano li prendiamo. Aveva mai 40 euro, ma non appena. A mezzo chilo 40 euro ci può prendere. Ha voglia fa macaroni in chirica. Ma devi stare attento, bisogna vedere che cazzo li fanno questi, li fanno mezzo alla fogna. E allora, che l'altro giorno ho visto in televisione una trasmissione che c'era il colonnello della finanza, a questo d'ora un Zenzen Turrizi ti cade da discariche industriali e poi se li prendeva. Ma aiuca! Gli Amarinella li fanno Natalì, no, quelli di Alghero no, Luca, quelli di Alghero vanno sotto Capocaccia, lì a Portoferro, a Porto Conti a farli, no, non ce n'è scarichi industriali ad Alghero, è pericolo il Porto Torres, hai capito? O prendi la barca e vai verso il Golfo della Ginara, verso Castelsardo, verso Tintino, capito? Se c'è la barca, che poi alla Ginara non ci puoi andare perché devi stare non so quanto in avanti. Quindi o vai sotto Castelsardo, vai, cosa ti posso dire? Però bisogna stare sempre attenti. Invece come è Natalino c'è gente che va della Marinella, capito? È pericoloso perché lì le scariche sono vicino. La gente è affidata, no, no, però non si affida a uno, ma non male, poi è un casino. Comunque c'è un tipo al bar di lì qua, le vaschette, quando è, non so se le presenti, quei barattolini in vetro che poi ci sono i capri dentro, così piccoli, 15 euro o 20 euro sono messa. Non so, io se non conosco la persona non è compro, capito? Avanti, Maria Luì. Ma lo sai che arrivi in via, guarda la cabaruccia arrivi in via, chi? Chi se solleva la radio, non l'ecco, no, attacca il microfono, solleva. No, ora, 1, 2, 3, ha detto. No, poco fa, quando inizialmente stavi parlando, avevo la radio mondiale, perfetta, ma sei senza radio. Beh, sì, grondocca nel microfono. Ma quale microfono che c'è Franco lì che sempre tocca in defendi, cos'è il microfono? E ma lui già non tocca niente, cos'è il microfono? No, adesso, ora 1, 2, 3, ho detto, mangiatevi pure il ricco. Adesso stai dicendo bene, puoi anche sollevare di più. Perché non ti piacciono Maria Luì? Sì, perché no? Sto parecchio, fatti gli spaghetti miei, oi. Infatti, no, anche se sono andati, non intendevo di prenderli, ma siccome erano troppo cari, allora l'avremmo tagliato in chili, sarà per la prossima volta. Ma ero Gianni. Ma sai, ci sono con una spiaggetta e mi sono buono molto con un rizzo, ma tanto che ne è in chilo. Basta andare in Lubagno, dai, non ci vuole molto. Vai a Lubagno, una taglia, piccati di cura. C'è praticamente la roccia abbassa a basso e con la spaccatura ci sono i ricci. Infatti, me lo finchini. No, ma non c'è radio? No. Vai tu, le mani secche, non è toccato niente, sempre toccando in Sardegna. Ma non è detto che non ho radio, Maria Luisa, ci fa vedere 3 metri lontano, chissà. Perché io non ho visto a parlare con le meccaniche, per quello fanno da lontano. Dai cara, quando dici così io ti temo a te. Ebbene Fra, soddisfatto sì. Soddisfattissimo, ha detto che. Perciutto? Tutto a posto, sì sì. No, già va bene col microfono, tutta la sera così ci 3 volte più forte di quelle colà. Andà bene, andà bene. Non c'è problema, scaldati, scaldati. infatti noi già siamo scaldati stamattina. No, ogni giovedì viene il tecnico a mettere un'altra pompa di calore nel salone. E così siamo a posto e via. Però è tutto aperto in modo che l'aria giri, se no, ti crepa, no, così no. Anzi, è un caso che c'è il gas allucinante. Solo che poi quando esci ti fa male perché è tanto con una sera aperta. Va bene, va bene. Avanti, Roberto ancora c'è, sì, Roberto. Tu non hai capito, noi siamo qua dentro chiusi, con la porta chiusa, siamo bevendo, ci stiamo riscaldando, hai capito adesso? Adesso sì, ho capito, me l'ho trattato, sì. No, non me ne accorgo, si usi il typhoon e l'altro microfono, boh, oramai mi pare sono tutti e due uguali, si vede. Ma è lì davvero, non me ne sono neanche accorto, perché il segnale è uguale, la radio è talmente spinta quella là, spinta è questa che non me ne sono capizzato, perché la sto spingendo io, la sto spingendo. Ma lui per favore non spingere niente. Ma la radio sto spingendo, Guarda, vai da brava, non spingere niente, che poi glielo sai, cosa ti succede? No, sto spingendo la radio. Hai la radio, capito? Vabbè, scusa, ma lui dai, stavo fraintendendoti. Sì, è bobo. Cristina, con queste spinte. Aspetta, tuo cognato, mi devo far rotolare. No, te lo mantengo bene, sto spingendo bene. Ma Gheggio non c'è? Sì. Gheggio non c'è? No. Ha fatto due. Va bene, fai gli auguri comunque a tua madre, tantissimi auguri da parte mia, di Ilaria e di Anna, capito? Cappa, hai cambiati? Allora riprendete, cazzo di peggio la vita, riprendi il doppio room. Riprendo. Sei stamattina mia moglie per mettere un centrino sopra il televisore, secondo so. Un centrino? A chi? All'urgenza la delle mani. Aspetta che è entrata Anna, mi sta mettendo le calze che c'ho freddo. Dischi! Bambucce! Ehi, ehi, di là! Ah, tanto foraglio è diventato! Ma quello che da giacchetta... adesso non si usa, ma... con la giacca da camera c'hai, con lo scudetto! Sono ricco di diventare? Ciao Gianni! Quello che c'era proprio in origine, da come nasce la piazza. a Tridia era. Io Piazza del Comune l'ho conosciuta a Tridia, con la fontana al centro. Io non me lo ricordo, devo essere buttata la moto di Guido. Dai. Tu sei tu che la fai vedere in giro, uomini? Io? Come me le voglio in busciacca? Nanna, ti lampavi. E mi sono già passata con i signori, mamma mia. Ah, così è chiaro, mangiare non sei invece a Tridia. Allora, vedo la Befana, che Gianni già lo conosce, che quando la papa dei gingommi in Piazza del Comune era andata via con la spazzola, mi raccoglie e faceva i ballini. Ignazio. Ignazio con la gnagnara noi conosciamo, Ignazio. Trovate belli alla, a 45 gradi ce li ha, con le punte sollevate in su. Come si bugiava l'altro scotto, dicevi che lavora con la Commanderland, ci vediamo in prima riposta e dopo ci vediamo in due scarpanti, buscia. Feuria, mamma mia. Però non obbligava con Salvatore, che ce l'ha detto dalla giostra, mamma mia. E allora che lo chiamava Nano? Una volta era capo di polpo, che era il consultore, la mamma mi ha messo, come ti diceva, chiamava il capo di polpo. Bloccate gli altri che erano passati i pantaloni, erano passati tutto il talco davanti, il talco del lato scontro, quello che si passa attorno alle gomme, no? Quel talco bianco, erano passati tutto davanti della ghigliola. Va via, gara, per carità. Allora, ci andate visto un po' io, ma ci lavoravo anch'io, ma c'è da ragazzo, così mi dava la chiave, spostavo il lato scontro, poi lavoravo la volta panoramica, così lo vestito. Per te Piero, adesso ci ha pagato, va bene, beh riprendete 10 minuti che mi allontano e mi vuole Anna, riprendi Maria Luì. Ma mi pare bella, pure un centrino tu pure. No, non lo so, se non vuole, boh, forse vuole tagliare qualche cosa. Ma la verdura che? Come ti spiego, non è che sono davanti al centino, devo avere il centino sopra il televisore di quelli lunghi, quelli... E praticamente il televisore deve metterlo sotto, capito? Se no viveva avanti. E c'ha ragione, capito qua, capito. Ma sempre da dire c'erano queste domande. No, per carità, ci mancherebbe. Ma scherzato. Mattarino, domani lo facciamo con l'avvolino. Sì, a sopra della giornata lo facciamo, sì. Sì, che bisogna fare? Cosa ne so per la ratta? Che gli darò un po'. Adesso mi ricavo l'attento. Allora. Sì, ma adesso fa lo stesso, non c'è problema. Adesso è fatta, piccolina. Siamo riusciti a trovare dei commutatori che fanno da radio e da... Io credo che vennero qua, perché come tanto lì che potevi parlare, c'è quel baracchino che passa alla radio. Da Pugliaro vai. Chi sono? E io. Però guarda glielo qua, e lo attacco alla radio. E il mappino la radio faccio... E domani mi interessa attaccare la radio. Tu una tali che c'è, te la farò piccolino. Piccolo, grande, come lo vuoi? No, perché lui è un black and decker di quelli che vale la tipo via di questo di un demolitore. Via. Per fare i buchi grandi va bene, no? In qualche modo faremo. Beh, se c'è il tutto però piccolo non c'è problema. Tanto che lo metto dove c'è la lampada. Forse la pistola li metto un po' di silicon prima a top. Sopra glielo mi mette il silicone. Lo so, sotto l'antenna. Ma sono riuscito a trovare grazie a quel volo dell'ore, l'ho messo da una parte e non c'è più volo. E quello ci vuole. E non so che ci vuole. Basta comprare un ferramenta, certo. Uisanca. Quanto è in realtà lì il buco? È buono, lo so. Bisogna misurarlo, a vedere da quanto vuole la punta. No, per prendere il rondellone, per sapere quanto è grande il buco del rondellone. E basta se ho un rondellone a mano, lo bucchia, e se no lo allaghiamo. Okay. E se arrivo a bucare il rondellone, se no entra nella lasetta. Appaga, poi domani vado glielo compro. con Ferrara e Cambusatore. Vado da Mura e lo conto. E la molla porta per far passare il filo? Io devo non deve far passare il filo. Devo far passare dietro, attorno alla guarnizione del vetro di davanti. Sì, io ho un raggio presente mentre mi sono della panda. Sì, la panda è nuda lì sotto, con così quadrante è nuda. Praticamente tu devi far cedere, il filo e farlo passare nella guarnizione, là. Cielo grande, cielo blu. Eppure hai visto lei, l'antenna che sta a Carlo, non riusciva ad arrivare ad Alghero stamattina, con la 2001. Carlo... Io stavo parlando con Claudio, era la prefugia qui. Sì, ma Titano c'ha 10 anni con l'antenna, me lo sai, 10 anni. Come c'ha Nick Sexy? Titanowski. Quello c'era 10 anni con l'antenna, chissà che c'è una pratica, prego. Magari l'ho fatto il mio contatto. Sì, io con Pirangelo la mattina non parlo andando fuori dottore, tranquillamente. Infatti anche io. È negativo per Alghero, col contrario per Alghero è negativo, eppure io parlo con Pirangelo. Ma sai che arriva un bene, bene, bene, proprio bene, Tonino di Usini a Alghero. E beh, è segreto. C'è due passi, più vicino di noi. Ma lo sai che dovrebbe arrivare bene ad Alghero Iscidi? Cazzo, Iscidi è un bel arco, io mi voglio fare la strada, ma arrivi ad Alghero, mi sa strada sta qui, quindi mi faccio giù. Ma arrivava in un lampo ad Alghero, perché quando andavo a Iscidi mi facevano fare anche Alghero. In base alla strada prima Iscidi, scaricavo a Iscidi e poi andavo ad Alghero a scaricare. Gatta di gatta. Sì, ma diciamo che per davanti al Piero, secondo dove sia, anche non so se è favorevole. Infatti, al Piero. Qui Pirangelo a Campeda gli arriva una bomba a Luigi. Io arrivo 9, mi Alghero. E io non lo so quanto arrivo, però a me non intendo quello di solo io, Pirangelo, figurati, con quel piccolino piccolo che c'ho io. 9 a Carlo, 7-8 a Pirangelo. Figurati, ho sentito quello di solo, con quello proprio per qua, proprio Pirangelo, ho parlato con il di solo da qua. Ehi, no, già è una bella zona. Maria ce l'ho aperto sia per Alghero che per Portotoro, tutti e due. Che cazzo. Mi sembra che mi metta a costruire antenne e mi faccio i soldi, cazzo, me lo vendo. Fallo, però. Un'industria di antenne mi metta a fare. Sono 17 gradi e mezzo, come è freddo. Oh. Non è eccessivo freddo adesso, siamo stati più male certi giorni che, per dire, ieri mattina quando sono andato a lavorare freddo non ce n'era, ieri è molto, figurati, e freddo non ce n'era, c'era, era proprio asciutta la macchina, non c'era umidità, niente. E vabbè, tu stai parlando oggi perché c'è il riscaldamento acceso qua, non c'è nessun fare il riscaldamento, la mamma fuori, anche spenta, però c'è freddo, freddo, freddo, 60 gradi, però me la porta sta sognando. Mi sta segnando Gai. Vediamo un po'. Io lo sposto da qua, lo mettiamo. Lo mettiamo qua. Vediamo un po' se cala la situazione. Lo metto vicino alla finestra, aspetta, poi ti dico quanti gradi ci sono. Hai detto la compra una pompa di calore. Che felice che. Tanto ho un suono in bocca. Per carità, e Claudio, non c'è più. No, io sono stato battucchiando tutto, la pizza allora l'ho impegnato. Ah, gatto a gatto. Ti ha portato le calze di rana. È fatto di mamma. Oggi non c'è, oggi non c'è. Che lo si sente, che lo si sente. Adesso guarda, ne prendo una di quelle polacche altri 2 metri, così sentimento che c'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha. C'è poco da fa. Pure tu c'hai ragione. Ma per essere geloso non bisogna che sia anche innamorato. E anche quello è vero. K. Ora, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fischiando. Ah, ferro. E così? Fa un fratello più lungo. 1, 2, 3, prova. E si sente sotto. Guarda avanti. Prova così a vedere, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso va bene. Ecco, allora, mi sono ascoltato, perché è abbastanza bene questa cosa. No, ma sono riuscendo. Segnale 7 arrivo io, la finanza. La radio va bene, va più che bene. Che è arrivato molto molto forte Claudio, attaccato. Ebbè, attaccato. Io sono invece ferrato. Cava cava. Va bene, sentivate quando ero in macchina stamattina. Beh, con un po' di QSB comunque già riguardo tranquillamente. Ma guarda se non c'è la salina, è buona. Saluglia. Dove sono io? Siamo già trovati a bilancio. Ecco, anche io, sono fatto un giretto stamattina e ho preso la direzione. Kappa kappa, una bella giornata anche, guarda, ci sta lavorando bene l'anghiero, proprio anche salendo aria attaccata, come siamo arrivati a Sassa, di là era più girita. Dove c'è? Quando c'è la vento? Infatti, sì, c'è un po' di vento, anche, vabbè, io... sono sceso che del motto qui nel polimetro l'ho preso. No, ma vedi, a questo vento lo reddo in questo dollaro, tu vedi che sono occupato di bruire. E a vento c'era vento di mare tutto qui. Sì, lo so, sono sceso prima a Pacanà, poi ho fatto produttore e poi sono andato al vino. Un bel giretto. Sai già, quando sei un po' di tempo senza prenderla, poi ti viene a voglia e fare pieno 50 ore a secco, non ti fermi. Ma ci sarà in gruppo da solo, se no? Ah, ci sarà in due, no? A me mi piace un bello tutti insieme. Quando ero ragazzo, vabbè, no, non avevo grosse pretese, avevamo la Vespa, il sì, allora tutti quanti in greffa al mare, la gente la vedo, anche al ghero, a uno dice la prima della volta la luce aveva. Candela che non andava bene, avevo smontata io, l'avevo messa a posto. Allora ti sono presentato, ma come faccio a trovare a casa adesso? Tutti così con motorino, Vespe, sì, ciao, tutti così. Ah, andavo in greffa, 20 per limone, non lo senti divertimento. No, qui no, non le manca la benzina buca. La parola la bocca va a essere vabbè, ma ricordando bene non era la mia moto, quindi. Ma io a proposito so che ho provato la volta scorsa, siamo usciti in gruppo come ti dicevo tu, tutti motorosa, a Torino qua. Già ho capito, non so, sto facendo cosa qua, sto attaccando il volmetro al quadro ricorrente, voglio vedere quanto abbiamo di tensione fissa sempre. Avvero mi adesso, stavo mettendo a posto, l'ho trovato. Capito già, lui, no, non è ma la benzina le mancava con la macchina spesso, capito? 127, no? Io come mi sarevo in radio alle 10:30, alle 11 di notte, anche a mezzanotte. A casa sei classi, vieni a recuperarmi. Se finisci tutta la radio non facevi altro che parlare, invece in Italia ti facevo uscire io. Che lo dovevo mettere a te, non mi ha più riservo allora. Ma che cosa è? Ho detto il nominativo riservo, lo dovevano mettere a te allora. No, sai cos'è? Che molte volte ci ha vinto il mare, le ragazzate che si facevano tempo fa. E magari avevi tanta voglia di scendere in un posto che tra gli schiavi era una stacca. Tanto vero che un giorno ero con Davina, dove nasceva il pano, e rientrando a casa praticamente sono capitato, non so se sei dove abita, vabbè, di questo vorrei dare, ma sono stato capire per sé poco dove mi sono fermato per fare una decisione un po' critica. Lì per lì ero quasi a secco. Ho detto, allora capito, il punto è questo, se compagno a te li mando più di io, quindi lascio più a te e mi scendo a casa in macchina. Sono una cosa che mi ha fatto così. Adesso lo farà, a me devi mattarlo. Sono cose che ci facevano, guarda. Poi quando sei entrato a casa, mi ha detto, guarda, non sai cosa mi è successo, c'era uno con il capo in giro, che bravo passaggio, guarda, non mi sono attivi. Per carità, vabbè, tutti quanti erano combinati questa cazzata qua. poi io senza benzina sono mai rimasto, sono andato una volta a soccorrere, non so se ti ricordi, a Luigi, quello che lavorava alla stessa di radio, non so se te lo ricordi. Amo la fa, sono andato a soccorrere. Beh, sono so presente. Ma noi, facevamo queste uscite così strane, che poi decidevi lì all'ultimo minuto, magari adesso le 11, cioè, cosa facciamo? Scendiamo a Vera, io scendiamo a Fentina, così via, capito? Non è che ci facevamo quelle volte. Però no, il problema era sempre il solito, che sai, non eravamo di raritti, come si suol dire, quindi con rischio non dovevi correre per forza. Quindi quante volte scendere a fare il campeggio, tanto per farlo, con spendendo costruite, patate, mangiando patate arrosto e pulpi quando li pescavo, campando così all'avventura, poi per ritornare ci sputavano altri soldi per rientrare con il Puma e praticamente quando dovevi ritornare fare a posto, però una volta non ci ha preso di su, siamo rimasti lì tutta la notte, siamo dovuto ripensare le tende. Sì, no, ma addirittura una volta siamo usciti, più di una volta ci andavamo. Guarda, la volta lì è stata un po' critica perché avevamo un po' di attrezzatura di pesca, no? E avevamo sì, praticamente, eravamo in tre. In quanto io appena sono entrato al mare ho bucato la rotta davanti, quindi era critica per il ritorno. Avevamo che siamo qua a pescare, poi la mattina ci pensiamo. La mattina ce l'abbiamo fatto, abbiamo fatto il sacco che tutte quante a uno praticamente abbiamo messo il mio sito adesso all'altro, ci hanno sentito la cosa stessa, non è che... Vabbè, io una volta l'ho trovato, lo stavo pescando, è venuto in moto questo qua, è andato a prendere, stavo parlando tutta la notte, no? Ho detto, beh, io adesso me ne vado perché domani mattina devo andare a lavorare. Va a prendere la moto bucata. Oh, io, come fare, come non fare, io mi sono ricordato che la macchina c'è come fa. Gliel'ho dato, non è che sono stato lì a dire paga, ma cosa, ho preso, gliel'ho dato e l'ho fatto ripartire. Ma se no, lo saprò più come, dove uscirci. Vede, sono cose che capitano. Ma fai, non meglio di sì. Oh, cosa non meglio. Natali, pesadini, che sono di sì. Ma questo è un brutto il brettuno. Signora, che devo fare una cosa da qua a casa, riprendete la voi, dimmi te, se coincido più tardi. Ciao, ciao, ti. Sentiamo dopo allora, se ci va a fare, cappa, cappa. Devi vedere com'è. Ora, come esco qua? 1, 2, 3, blu. Ciao, ti, se coincime, poi ti accocimiamo. Vai, Natali. Io l'ho salutato già, ciao, qui non va, comunque, sono meglio qui. Ehi, perché c'ha 2 anni. Ehi, gatto, la buona caccia. K di Roger, K di Positivo, K di R, R di Roger, K di Roger, KI e LMNO. Ah, ma so cosa bagna, fanno tutti i gruppi. Alla L, senti, Natali. Cosa? Alla L. Grave la fine a fare. E boh, la chiama della moglie e boh, ciao, da sempre. E la lì la mette rubando l'Argentina, allora tu la sto tagliando. Non ti ho detto niente, adesso tu. Ma l'hai pensato, bastardo. Paura, e non mi sei, via da Edu, poi ci mi sono cagliato un uso. Ha detto chissà cos'è fede, basta. Sì, ma quello è bastardo, Rocchetta. Che è Rocchetta? Entra il fuori, mi. Hai capito, Elia? Rocchetta è mai la bicicletta. Sono già andata in nove, devo dire Rocchetta. Sì. Ciao, Tino, buonasera, ben sentito. Io l'ho chiuso mica, ma dormite sì. Ah, la tua stavo tagliando, che adesso sto collegando col termometro. Quando sono dormita voglio vedere se è continuo, se sono continui questi 220 volt. capito? Perché a volte mi sembra che mi si abbassi l'attenzione, ecco, allora sto attaccando il vometro, ho un bel vometro, in agio bizzicato, la verità è, da un quadro elettrico, il nostro elettricista ha cambiato, ma mi sono gli strumenti buoni, li esita a meriviglio, c'ho anche l'amperometro. E quindi ti conviene farti un quadretto, che si spegne ampere e volte. E si conferma, mi sto tentando ma non ci posso permetterlo, cazzo. Quasi quasi me lo metto in fronte. Ma con la messa la camera con lo scudetto, sì. Se lo metto lo do io, abbiate di sicuro. Sì, con lo scudetto, la messa la camera ancora con lo scudetto. La Juve. No, è cazzo. Con le bambucce. Questa c'ha un bel anni, ma mi fa ringrazio, mi era buono, le babbucce, mi ha lasciato in dotazione mio suocero, me le ho messe. Io guarda, avevo un pigiama, ho fatto in fibra acrilica, ma dava un caldo, era così bello, era favoloso, era caldissimo quel pigiama, poi mia moglie me l'ha fatto sparire perché dice che lavando si era accorciato e si era lampato, guarda, non avevo più la vita che si era lampato, mi ha cambiato 50.000, ma non ho trovato mai uno uguale. Perché sono quelli lì, signori, cioè, ma che hai un cazzo a faccia, c'è un filo di merda, mamma mia, questa non mi dà una ricorda, aspetta. Oh, io se non c'è proprio freddo non ne uso. Mia mamma ce l'aveva la testa da camera, così che ha la giacchetta con il bugione, no? Sì. Ah, già usavo anche io prima, adesso non mi tratto più. Adesso buttare le magliette al vieni mi addormento, stato qua, la casa è calda, non c'è pericolo che sia freddo. No, che sta luce si chiama buco, bisogna dormire sui fondi di soccati. E quindi non c'è problema. Oppure io ho acceppato un cinema che costa. Sono praticamente sempre con il pelle che sta calando la calda. Come? Come già? Allora, sempre con la caldaia a pelle che sta calando. E allora? E beh, consumo a me? No, già, funziona bene, già. A consumare consumava chi sa monta di calore. Ma era un bio affiso. Quelle consumano ma da solo. Come ti dice il tac, scappa. nessuna tolleranza. Prima invece c'era un po' di tolleranza, capito? Per le compassioni vecchie. Per quello già io sto mettendo gli strumenti, per regolarmi, mi capisco, ma non c'è troppo assorbimento, comincio a attaccare. Allora, dall'amperometro se ne accorgi. Sì, ma è guarda, una cosa esagerata, anche quello di su oggi è venuto, mi ha detto già non c'ho la chiave, non è che qualcuno mi fa la cortesia, che non so come fare, le mancata la luce, mi è scattato da giù e non c'ho la chiave. E gli ho detto, vabbè, te lo apro, cioè non è che me la presi, me la faccio domani, no, perché se poi mi scatta a me, stanotte io devo venire a notte, ti riscatto di notte, te la faccio io domani e mi dai su. E la mia volta dall'aiuto, così mi dirà fine della giave della capitola che me l'hanno domandata e non me l'hanno più restituito. Visto l'hanno fatta apposta, in realtà me l'aveva fatta durare. E io, beh, non c'è problema, comunque io gli ho fatta per fare la chiave, non l'ho fatta per tenersi. E malissimo, se l'ha fatta me l'ha tirato il raggio. Ma già ne più fumo ne aveva fatto due, quindi ce l'ha sempre in mano. E che andrà lì, ma no, l'ho fatta. E fammi chiamare, di no stasera, mi dispiace tu dirlo, però ho detto no, perché poi se stanotte mi succede che io una volta fa la pizza, no, attacca il forno elettrico, come ti attacca che su un forno, si scura tutto. Perché il forno c'è assorbimento, devi spegnere tutto quando si vuole il forno. Fino a questi tolleranza è capace subito di mettere a vedere la giusta. Sono più sensibili questi qui, capito? E lei si regola di più con quello lì elettrico, capito? Si regola di più con quello elettrico che con quello a gas. Ce li abbiamo tutti e due, però a volte se fa molte pizze li accende tutti e due, ma vengono meglio, guarda cosa mi ha fatto fare, vengono meglio con quel forno elettrico. Oh già! E io? Stavo dicendo di collegarmi alla rete del gas, è quello della strada, noi abbiamo già la colonnina, no? Ci hanno fatto la lettera a Melea, 5 euro al mese, ma conviene? Io ho paura, lo secca, da quando è successo quell'affare via Cesare Battisti ho paura, mia moglie lo vuole attaccare, ma io ho paura. Ma cioè, forse conviene, perché praticamente ti danno tutto loro, incomodato l'uso, e tu paghi 5 euro al mese solo il consumo del gas, loro ti mettono il contattore, tutto, devi praticamente mettere i convettori del gas e basta, uno ogni tanto e boh, e poi ti collegano loro. Non so. E quanto ci pagate l'allaccio? L'allaccio non si paga forse, si paga l'allaccio. Sì, 68 euro il primo l'allaccio e basta. E poi le bollette di 5 euro al mese, 5 euro al mese, e boh, così mi hanno letto, boh. Hanno dato la lettera, siccome noi abbiamo la colonnina nella strada proprio a fianco al portone, e vogliono collegarla a questi del palazzo, quasi quasi, mi collego pure io. Ma che scandaletto? Io credo che è pericoloso. Sì, è già anche per la cucina, usi tutto con quello, bombola di cucina non usi più, usi tutto quello. Cos'è Natali? Io non ho mai in culo, non me la più brucia, perché ti dico così un caso, non vai a cubia. Lo so Natali, tutto è pericoloso, però se non... Sì, e perché a Roma non c'è da una vita? Claro, ma non è a consumo il gas? Sì, ma è aria profanata poi, capito? È tutto un sistema, oramai tutte le grandi città, tutti i grossi alberghi, tutte, hanno tutti questo tipo di sistema, capito? Tutto questo tipo di sistema. Tu figurati a Porto Torres, Gianni, l'hotel Bissoni, non so se te ne sei accorto, hanno fatto tutto nuovo. Il riscaldamento è tutto a gas a propano, capito? Lo so perché hanno fatto tutti i collegamenti dalla strada, è tutto a propano di Bissoni. E se andendi, dopo un mese dalla lavia, e non è che solo c'era così a gas la caldaia, però ogni anno prima di accenderla dovevi cambiare il camera del termico a controllarla che non si sa mai. Il riscaldamento una volta che si è allacciato, prendi la caldaia a gas e stai andando, ti metti per lo spittone e se andendi. Infatti, dicendo, conviene. Conviene, intanto ti danno tutto loro, capito? Paghi solo l'allaccio, perché prima avevano fatto una cosa loro, come si dice, una propaganda, chiamiamola propaganda, non so, un'offerta, ecco. Quando stavano allacciando, se facevi la domanda prima che finivano gli allacci, avevi il collegamento gratis. Poi invece se la fai adesso paghi 68 euro, però conviene, che c'hai tutto, gas da cucina, gas di riscaldamento, capito? Il gas per tutto, anche sotto il letto, capito? Quando sfiatti, camera a gas. L'acqua calda c'è? Sì, c'è l'acqua calda, l'acqua fredda, quella tiepida. L'importante è che non la metti come ha messo quella signora di Sorso, che è caduta la bambina dentro e si è schionata. È morta, non si è ustionata. Lei si è ustionata, è rimasta 10 giorni, dopo 10 giorni è morta, come fa? Ustione di primo grado, poverina, ma non ti va, vedi arrestare la Salvena. Con la caldaia del riscaldamento ti arriva la cosa gratis, l'acqua calda, no? Adesso, adesso avevo tutto la burretta. Esatto. Eia, Natalita, credo che sia così, perché chi ce l'ha non ha niente, non ha scaldabagno, non ha niente, tutto a gas. Eia, io lo stesso l'acqua, non è un riscaldamento, io ho i pannelli solari per l'acqua calda. Conviene, tu immaginati, elimini lo scaldabagno, elimini la bombola, elimini il gidduto, capito? Secondo me conviene, è molto conveniente. Dobbiamo farci un giro di conti e vedere un po', però secondo il mio punto di vista conviene al 100%. Adesso ci abbiamo una riunione condominiale al prossimo mese. Decidiamo, se collegano tutti io mi collego, e se non collegano tutti non mi va tutti nulla, non devo trovare un collegamento da lui. Andò a gas invece che andò a benzina. No, è vero, nell'acqua calda c'aveva la mia ex suocera, c'aveva l'acqua calda, il riscaldamento, con la caldaia a gas. E il pentolino ti puoi scaldare tutto, attacca il pentolino, tutto attacchiamo. Quello sì. Io c'ho i pannelli solari, quella è un'altra soluzione bella per la... l'acqua calda, poi credo come l'aveva anche questo riscaldamento che c'è adesso, l'acqua calda. Io ho il pannello, quello per ascoltare la musica, il microfono alla macchina. Poi c'è una casa sfondata, e allora ne ho tolto, ho messo il pannello da cucina, ho messo. Ma California, Maria Luisa, torna Manieni. Torra Magnendici. Si sta strafogando. Allora adesso vado anch'io a mangiare una cosetta, dai, ragazzi. Ci sentiamo dopo. Ciao anche a Walter che è in quei ricchi, sì. Siamo dopo, vado a mangiare un po', se c'è qualche cosa, non lo so. Fiago non li biglio, A me mangio tutta taglia di salata, boh. Prevedo una serata di quelle da ospedale qua, tipo insalatina, una mozzarellina, una vera di birra aiata e trubagliettato. Io non so come cosa mangiare, no. Io qualche cosa, mi lucca, guarda, ci vado un panino, aiglia e truba. No. Io ho mangiato le acque, ho fatto il giorno. Che tu telefono, io non ho mangiato nulla, poco fa mi ci ha fatto un panino, una fettina e un po' di salata, e dopo mamma le faccio cucinare la pasta, ce la può cucinare, se no... E non mi devo mangiare, è uno che mi si deve essere affogato. Che infatti, e ma si ho fatto però, ok? Adesso avrei voluto una bella pasta invece. Solo che non sono già riuscito a comprarmela. E poi vai un orecchio e te la vai a rigare, che sai tu? No, di Napoli. E non sono in macchina, la di Napoli. Ma quel numero? Ah, che magari non mi trovano neanche. Sono difficile a trovare a me qua. Ma quel numero? Che fanno per fare di qua? Proprio l'indirizzo giusto. ti trovano. O al limite, vabbè, tanto vale quella applicazione laggiù. Lo raggiungi magari lì. Adesso, vedi. No, mi faccio un po' così, no, non è quello di uscire, c'è freddo magari, sono con la gola in dissesto. E se non ti cucini due fettine di alarelle? Io ho Claudio, Claudio non è alarelle. Luca? Chi è che lo vuole mio figlio? Pinovino! Ciao Massimo! Pinovino! Eia, ma mi senti? Ti sento male. Ma mi senti male? Beh, adesso? Adesso va bene. Vabbè Massimo, allora. Birubito, che cazzo sei? A casa, solo un attimo. Dimmi. Dove mi sta chiamando mamma Massimo? Becco. Sta chiamando mamma. Allora Massimo, tua mamma può salire. Dove sei? A casa. Chiama Bobino, a Peppino. No, c'è Stefano. Sì, che c'è la macchina. Stefano, ti ha piazzato? Sì, non sempre, però già ce l'ha. Massimo, tanto io stiamo sempre qua noi sul canale 10 e se mi sente già entra, se no si arrangia. Se no ci la piglia il culo. Allora, oggi domani burro. Ciao Bilubi. Ciao Massimo, sentiamo. Ciao, ciao. Sono ogni tanto al barmi, ogni tanto con il giorno, ogni tanto. Io ci faccio tu invece, che ragazzo vuoi da me? Vai, fatti una cagata. Faccio al bar, adesso sempre lì. Ma tu la lingua in culo, non però ogni tanto, ogni tanto passato, non ci vi passato. Ah va bene, già va bene. Beh, guarda, preparami, qualcosa da essere sorprendenti, dai. Signore. Che è questo signore? Che signore? Non la balla, un signoro, detto. Ah, vabbè, se lui c'è una finestra, è ghiacciato e mi segna 14°C. Ghiacciato? È ghiacciato un po' sotto, freddo, là. Ghiacciato. Non è che domani si abbassa la temperatura di nuovo? No, domani è una buona giornata. Ma guarda che va qua, sole, sole, sole, sole. Ah, che bello. Massimo, andate a Denisì. È Natale, andate, sono io, sono la femmina, la mamma, la mia moglie. Posso, Natale. Sono che alzata a un po'. A cucinarsi le ararelle. Oi. Qualche telefonata avrà ricevuto. Cosa? Qualche telefonata. No, non è andato a mangiare. Kappa. Massimo! Lui ha detto di prendere la pastiglia, quindi è probabile che sia mangiato. Perso un Viagra è andato. Cosa? Perso un Viagra è andato. E dopo si fa zeba che la busciacca la ciappa di una capita. Questo è sempre per lui. Cammina a destra da buio, no vai, male mi intendo. Mi sei sceso in Viagra, mi sciacca e ha camminato con l'anca dritto. Eppure questo Viagra fa anche male, perché ha sotto il tumore che è morto dal Viagra. Boh, io so che lo usano anche persone normali, già. Per fare più... Allora io lo so che lo usano anche quello che fa le film del porno. L'hanno intervistato, vorrei dire, da poco, hanno detto che praticamente ne prendono anche i due i partner, quelli che fanno i film con loro. E più li prendono queste persone, diciamo, che fanno urge, roba così, parti, tutte queste cose qua. Ah, le usano anche le persone normali già. Cosa vuoi che ti dica? E vabbè, lì per fare femminiate usano altre cose pure, non sono qui in realtà. Poi sono tutti sketch, non è che sia nemmeno così, ma sono tutti sketch che tu unisco. Infatti, questo è, va. Oh, yeah. casino, un casino. Va bene, va bene. Ui, ai, ai, ai. E poi questa mazzaletta di quella signora che mangiano pasta e piselli. Mio marito ha detto che era in dosci, e la moglie ha detto che ci vuole andare a portare un Viagra. E l'ha fatto bombare. Ah, che piselli erano duri già, era comprendi tu. Sì, ho capito, sto facendo un difetto perché ce ne ha avuto. Ah. Vabbè, tu ti senti parlare, non è sorda, no? Cosa, Luca? Ti senti parlare? No, non mi sente. Perché sta facendo roba, non penso, dice le cuffie. Ah, no, non mi sente, no? No, no. Vabbè, allora. Cappa, cappa. Ugaria. E niente, sto attimo, sono attirato. Piante allucinante, è allucinante. È una cosa allucinante. E non trovi, così, ma una persona del genere, in un angolo, così gira e trovi una persona del genere. Fuori il capo. Ehi, ehi, allora. Attento, Milangelo, si ascolti qua la cappa. Ah, si vino. Ah, se te ne sbaglia. Chiuso tutto. La metà costeglia, ehi, c'è più altro, nessun canale. Ma per me l'ha messo in minestra, certi piselli duri, così è. Ehi. Adesso mi sento, dice. Dice, ma perché sono così duri i piselli? Tanto che siamo servizi a grembe. Allucinato. Tutto è vero. Beh, veramente non è così, è diversa, ma non mi ricordo, non me lo ricordo bene, non con quella barzelletta. Beh, sì, eppure tu che ho conosciuto questo tipo che veniva a pescare con me, noi siamo diventati amici, lui. Siamo conosciuti di Almolo, e faceva rappresentante dei medicinali, e ha detto che gli amici vanno, li conoscono, non è che c'è una scatta di viaggio di quello omaggio, che se aveva un amico, tutti così gli dicono, poi se la usano loro. Io diciamo che un tipo che conosco io li usa, li prende. Davvero? Sì. Già, dici, non ci faccio nulla, ce ne faccio quattro. Oh, ma la maletta me la dico. Ma sono cose che fanno male, sono contro la natura. Capito? Io preferisco... cioè, preferisco fare la naturale e non rischiare. Infatti, ma lui non beve, non fuma. Cioè, beve così qualche bicchiere di birra, ma non più tanto. Non fuma, niente. Poi, non lo so, balla la maletta e balla ti dico. No. Ah, si bugia, fate la scatola a me, di quelle scatole omaggio. Lo sto qua, anche lui, un amico, ma è che c'hai gli arrivati. Te stavo dicendo lui, che se uno c'ha ipertensione, lo valori, non le può prendere, lo sai. Se no gli rega che infarto. Boh, non so io. Non so quel tipo, quella signora che il marito gli ha messi nel. Non so dove, perché una sera ne ha un bel tempo. Anzi, anche lui stava sempre sul divano. Allora gli ha messi nel caffè, mi sembra, nell'acqua, non so. Mi ha preso e si è salvato per miracolo. E vedi, ci sono tipi che sono veramente proprio affamate, fanno queste cose. E vabbè, questi qua sono queste moglie, anche un po' grandetti, cioè per quanto ci ho visto la TV, no, l'ho fatto vedere a loro proprio, ma l'ho fatto vedere più o meno l'età, intorno ai 50, tutti gli anni, 60 forse anche. Adesso non stavamo facendo più niente lì, non so, sarà così. Cosa vuoi ti ricchia? Allora, ti saluto che vado a aiutare mia moglie a fare le polpette, che se non mangiamo più oggi. Ci sentiamo più tardi magari, Oggi no, va bene, vai.